si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori. Ogni settimana a quest'ora su Radio 24 vi proponiamo il nostro antidoto alla depressione da cattive notizie. Creatività e buona volontà sono le armi impugnate dai protagonisti delle nostre storie, persone che, come diciamo spesso noi, si rimboccano le maniche e di fronte alla crisi e alle notizie sempre più spesso deprimenti della cronaca inventano scenari inaspettati. Allora, qualche notizia di questa settimana. A Vicenza le prostitute pagano le tasse. Dal Giornale di Vicenza leggiamo: gli accertamenti della Guardia di Finanza sono scattati su una quarantina di escort di lusso che si offrivano e si vendevano sul territorio berico. In molte hanno aderito alle richieste del fisco, decidendo di versare il dovuto. Un'italiana, pensate, ha iniziato a corrispondere a rate 300.000 euro. Dunque si può recuperare l'evasione fiscale anche dal giro della prostituzione. Pensate quanto si potrebbe recuperare, come scrive il giornalista che ha fatto questo articolo. Stima un valore da 1 a 5 miliardi di euro l'anno in Italia ai proventi della prostituzione, che fino ad ora è stata, naturalmente, come sappiamo, esentasse perché è sconosciuta al fisco. Un'altra notizia dal sito l'inchiesta.it: dice no alla mafia sulla statale della morte, 5 arresti. Un giovane geometra incaricato di alcuni lavori di manutenzione sulla statale 106 ionica, detta della morte per via dei numerosi incidenti in Calabria, riceve visite e richieste di contributi da parte di chi dice di controllare il territorio. Ma questo giovane geometra ha il coraggio di opporsi, e proprio questa opposizione sua e dell'impresa finita nel mirino a condurre all'arresto di 5 presunti esponenti di clan dell''Ndrangheta. L'ultima notizia da Bologna, Repubblica, bologna.it: il cassonetto sarà intelligente, il cittadino avrà la smart card, progetto sperimentale in Emilia Romagna per rivoluzionare la raccolta di differenziate, soprattutto intercettare rifiuti elettronici. Si potranno tracciare le abitudini di smaltimento. L'obiettivo è raddoppiare la raccolta differenziata e dopo Spilamberto in provincia di Modena, adesso la sperimentazione toccherà Bologna, Castenaso, Ravenna e Lugo. Queste alcune notizie. Noi aspettiamo anche le vostre storie sul profilo di Facebook del programma Si può fare trattino Radio 24, la nostra mail Si può fare radio24.it. E tra poco anche in diretta sui temi della giornata, ma in settimana alla nostra segreteria telefonica 800 28 12 12. Vi ricordo la vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Questa settimana c'è stato l'accordo europeo sul fiscal compact. Avrete letto sui giornali forse di che cosa si tratta. Sentite invece che cosa ci propone questo ascoltatore. Buongiorno, sono Giuseppe da Milano. Volevo dire che una cosa che non riesco a spiegarmi, proprio incredibile, è questa: come mai il governo Monti, nonostante la Germania e l'Inghilterra l'abbiano fatto senza che nessuno avesse nulla da dire? Beh, questi hanno imposto una tassa sui depositi svizzeri dei loro paesi, che gli sta fruttando 15-20 miliardi di euro all'anno per 5 anni, fin quando entrerà in funzione la legge sull'anonimato. E questo è diventato un alibi per Monti, per dire: sapete, io non posso farlo, l'Europa così non vuole. Ma chi gliel'ha detto? Questo già equivalrebbe a metà della manovra, soldi che potrebbero essere dati alle imprese, alla gente e non so chi altro. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. E quando arriva il sole, vedrai che cambierà. Mentre la città si muove, io resto ancora qua a domandarmi se è peccato abbandonarsi o no. Perché così non ho mai amato, non ho mai amato, no. Dimmi dove sei. dove sei, una canzone d'amore di Giorgia, però sembra calzare a pennello per quanto riguarda invece un'altra storia. Deve averlo pensato, dimmi dove sei, anche il rettore dell'Università di Genova, pensando ai suoi professori che invece di essere in classe con gli studenti come dovrebbero, erano altrove, almeno stando alle segnalazioni che gli sono arrivate, tanto che lui, il rettore, ha deciso con coraggio di avviare un censimento sul fenomeno dell'assenteismo nel suo ateneo, un fenomeno per la verità che insomma conosciamo. Sembra che l'impegno della lezione per il professore universitario sia quasi l'ultimo dei problemi. Prima ci sono le conferenze, i libri, le trasferte. Rettore Giacomo De Ferrari, buongiorno. Buongiorno. È così? Io le voglio chiedere subito, ma come la guardano adesso i suoi colleghi da quando ha preso questa iniziativa? Maluccio quando la incontrano nei corridoi dell'università? Devo dire di no, anche perché io credo che il problema, chiamiamolo dell'assenteismo, sia molto limitato, però probabilmente esistono mezzi per trovarlo, che sono quelli del giudizio degli studenti sull'attività didattica, le opinioni dei coordinatori dei corsi di studio, ma evidentemente non bastano se la Corte dei Conti ha ricevuto, insomma, così non so da chi, ma insomma ha ricevuto notizie di alcuni professori verosimilmente poco impegnati nella didattica. Io ho letto però che la segnalazione parte da alcuni studenti che si sono rivolti prima al garante dell'ateneo, poi i dati sono arrivati alla Corte dei Conti. Si parla di almeno 7 casi clamorosi e di insegnanti che avrebbero fatto lezione regolarmente solo per 3 giorni all'anno. Lei dice che è tranquillo, io però le consiglio di stare attenta alle maniglie riscaldate, sa, quelle, alle puntine sulle sedie e gli scherzi. Perché però appunto ecco questa ci sono già dei dati, dei numeri insomma abbiamo varato questo l'inizio di questa indagine proprio pochi giorni fa quando lei l'ha letto sul giornale, quindi è un po' presto adesso per avere dei dati. Devo dire però che gli studenti hanno fatto un discorso di ordine generale, non specifico su alcuni docenti. E devo dire che è proprio questo che mi sta a cuore, non è tanto il singolo, capisci? 7 su 1500 docenti. Sì, non è molto, non è molto. Però poi magari 7 è la punta di un iceberg, di un piccolo malcostume. Bravo, io vorrei scoprire proprio questo. E vorrei anche capire se ci sono docenti che hanno degli incarichi retribuiti non documentati, non denunciati a noi, non autorizzati, quindi. E questo significherebbe un altro danno, non solo, ma il numero dei docenti a tempo pieno, quindi a stipendio pieno, è praticamente la quasi totalità, solo il 5% sono a tempo parziale. Quindi insomma dovrebbero svolgere tranquillamente le loro lezioni. Senta, le voglio chiedere questo, non c'entra niente, però lei che dimostra di essere una persona integerrima, insomma, perché sarebbe più facile forse tra colleghi, io ho fatto la battuta all'inizio, chiudere un occhio e far finta di nulla, invece lei fa un censimento contro l'assentismo. Come si sente quando legge sul giornale del rettore famoso, non facciamo il nome, di Roma, che è riuscito a far assumere o almeno insomma così dicono i maliziosi, la moglie e credo anche i 2 figli, che tra l'altro con medicina non c'entravano nulla. Lei che pensa di fronte a queste notizie? Ma io voglio essere il più possibile garantista. Io credo che in questi casi, non in questo caso specifico, in generale, bisogna vedere bene se il figlio, la moglie, il parente qualsiasi sono bravi o no. Perché se sono bravi, poveretti, hanno diritto di cittadinanza anche loro. Il problema è se non sono bravi. Ora, questo naturalmente, diciamo, il caso di Roma è un eccesso, perché non parliamo del figlio o della moglie, bravi magari, e quindi va benissimo. Ma un'intera famiglia forse un po' tanto. Comincia a essere un po' troppo. Vabbè, insomma, però questo ci portava fuori strada. Restiamo, grazie al rettore Giacomo De Ferrari, rettore dell'Università di Genova, che ha avviato un censimento contro l'assenteismo degli insegnanti universitari nell'ateneo genovese. Noi oggi all'800 24 00 24 vi chiediamo proprio questo, di sfogarvi ai nostri microfoni sulla sindrome da ufficio vuoto, cioè raccontateci quando vi siete trovati proprio di fronte fronte a un caso di assenteismo insopportabile, non solo all'università, come abbiamo sentito, ma anche altrove, negli uffici pubblici, oppure a volte nei call center delle aziende di servizi che non rispondono mai, oppure i vostri colleghi d'ufficio che andavano, beggiavano e poi andavano a fare la spesa tranquillamente mentre voi eravate lì in ufficio a lavorare. Voglia fa lo sposo e all'amore voglia fa, gira e salta, salta e gira, e me voglia innamorare. Coraggio, ballate insieme a me, ballate la saltarelle, cumbare, cumbare, cumbare, ballate insieme a me. Forza, forza, forza, forza, tere, tuppe dell'aria là, tompa, tompa, tompa, tompa, non te devi far stanca. Salta, salta, salta, salta, ce vorremmo innamorare. Gira, gira, gira, gira, ce vorremmo in mio Era un brano dal capolavoro di De Sica Pane, Amore e Fantasia, che sembra il titolo della prossima notizia, perché a Napoli da qualche tempo sta andando a ruba, e non solo a Napoli, in Campania, un nuovo tipo di pane, che in realtà è un vecchio modo di fare il pane rispolverato come rimedio anticrisi con un lievito naturale che, dicono i panificatori campani, vecchio di 60 anni, si produce un pane che non invecchia per almeno 7-8 giorni, a differenza del normale pane che si trova mai in commercio, che il giorno dopo già è da buttare, e che quindi insomma dura di più, è più economico, tra l'altro costa meno. Un pane anticrisi, solo la creatività napoletana poteva produrre in questo momento un'idea così. Ne parliamo con Domenico Filosa. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Tomimmo, panificatore di dove esattamente? Io sono il presidente nazionale dei panificatori campani, tra ecco. cui vestito per Sebastiano al Vesuvio, dove sta questo famoso pane di 8 giorni. Ecco, ma come vi è venuta questa idea? Da quanto tempo? E poi che vuol dire un lievito che ha 60 anni? Questa cosa mi incuriosisce. Quindi è un lievito naturale rilasciato dalle nostre nonne, che viene rigenerato giorno per giorno, che il mio c'ha una vecchia di 60 anni, quindi è un lievito naturale che aiuta il pane nelle 24 ore a avere una lievitazione naturale, ecco. senza lievito di vitro, solo acqua, farina e tempo. Sì, abbiamo detto che questo pane costa un po' di meno rispetto al pane sì, tradizionale. È un pezzo di pane che circa 3 kg viene sui 5 euro, qui è una durata di 5-6 giorni. Quindi oggi, in questo momento di crisi, è molto utile alle famiglie, perché è un pane che non va buttato come i tipi di pane industriali che fanno oggi, che il giorno dopo già non si può mangiare. Ecco, perché il pane è diventato negli anni così, che il giorno dopo non si può mangiare? È tutto fragrante e poi non dura niente. È perché la verità, si sta perdendo le tradizioni antiche del pane, anche perché i ragazzi di oggi... Questo è un lavoro molto sacrificato, perché si lavora di notte, i ragazzi si stanno allontanando un po'. Noi vogliamo, diciamo sempre ai ragazzi, di ritornare a queste tradizioni, perché sono delle tradizioni bellissime che danno anche grossa soddisfazione, con qualche sacrificio in più, però sono cose belle che poi dopo danno anche parecchio successo, soprattutto quando economicamente. Soprattutto quando si esce poi anche con fantasia e creatività a inventarsi dei prodotti nuovi che vanno bene. Da quanto tempo avete ritirato fuori questo pane che dura di più e diciamo avete riscontrato che insomma nei panifici la gente lo chiede perché piace? Sì, l'abbiamo riscontrato anche perché qua a San Sebastiano abbiamo fatto uno studio storico, abbiamo ritrovato anche delle pergamene del 1700 che parlava di questo pane. Quindi con i nostri storici siamo risaliti alle vecchie tradizioni, quindi è un pane che ha una doppia lievitazione, quindi ha le sue 24 ore di lievitazione, quindi ha una durata maggiore al pane comune che già facciamo, che è buono, però questo è un prodotto aggiuntivo, quindi con un po' di sacrificio e lavoro in più, segreto antico che abbiamo riscoperto, diciamo che sta avendo un grosso successo, perché la gente dice che dopo 2-3 giorni è ancora buono a mangiare, qualcuno dice che dopo 10 giorni fatto sotto una zuppa di fagioli ritorna alla sua fragrantezza del pane. È certo, perché quando si vuol fare la zuppa, per esempio, c'è sempre il problema che ci vorrebbe il pane raffermo, però il pane, quello che si trova spesso in commercio, non è adatto perché secca, non c'è più sostanza. Invece voi, anche su questo, insomma, il vostro pane non si butta via mai, davvero. Io però le voglio chiedere, ma voi alla fine, visto che costa un po' di meno e la gente quindi torna meno frequentemente perché dura di più a comprarlo, alla fine dei conti ci guadagnate o no? Non ho capito. Visto che il pane costa di meno, abbiamo detto, sì, visto che dura qualche giorno in più, per cui la famiglia che viene a comprare il pane non torna il giorno dopo a comprarlo, ma tornerà dopo 4 o 5. No, è brava, il giorno dopo non viene a comprarlo, quindi riesce a voi però, il giorno dopo. Mimmo, voi però, mi stavo chiedendo, voi panificatori ci guadagnate o ci rimettete un po' perché appunto la gente poi non torna all'indomani? No, a rimetterci non ci rimettiamo, ci abbiamo messo un po' di lavoro in più, però in questo momento di crisi il lavoro in più serve. A dare anche al rilancio al paese. E va bene, allora grazie, buone sperimentazioni attorno al pane. La notizia è questa, grazie Domenico Filosa. Il pane che dura 8 giorni va a ruba a Napoli e in Campania, e magari esiste anche altrove, almeno io però a Milano non l'ho mai trovato. Non so dove abbiamo scovato questa canzoncina che si chiama Il ballo del somarello. Del resto è lui il protagonista della prossima storia. Siamo in provincia di Treviso, per l'esattezza Codego Sant'Urbano, dove si svolge una fiera agricola ogni anno di un certo richiamo, e dove soprattutto nei giorni della fiera, e questo è il secondo o il terzo anno, adesso cercheremo di capirlo, consecutivo, dove si sperimenta l'asino taxi, ovvero la riscoperta proprio dell'asino in quanto animale come mezzo di trasporto, un'iniziativa, assicura il sindaco, per recuperare tra l'altro uno stile di vita frenetico e più sobrio, e aggiungo io anche sicuramente più atletico, perché se uno si rilassa rischia di cadere poi mentre è in sella all'asinello. Salutiamolo allora il sindaco Alessandro Bonet, il sindaco di Codego Sant'Urbano. Siete in piena fiera, come sta andando l'esperimento dell'asino taxi, sindaco? Beh guardi, un successone. Devo dire che non c'è mai stata così tanta attenzione attorno a un asino. Godega per 3 giorni diventa la capitale nazionale dell'asino, e noi siamo fieri di questo, un animale umile, un animale mansueto, che però a noi sta dando tante tante soddisfazioni. Soprattutto le massaie dei nostri paesi in questi giorni si sono un po' risvegliate, hanno riscoperto il gusto di farsi portare a casa la spesa a dorso d'asino, quindi con un ritmo più lento, un ritmo più adeguato, e soprattutto di questi un po' meno fatica con la benzina. Si risparmia anche la benzina, cioè. 1,80 euro. Ma senta, ma la strada dal supermercato o dai negozi alle case di queste persone, queste anziane, insomma, casalinghe, sì, è percorribile per un asino, mi domando, perché ci saranno le macchine, non è un po' pericoloso? Come avete fatto? Noi viviamo fortunatamente ancora in un paese di campagna. E quindi sì. C'è il traffico, ma non è quello di una metropoli. E più o meno la distanza media dalle abitazioni alla cooperativa di consumo che vende i prodotti sarà attorno a 1 chilometro, quindi in 20 minuti un asino. Insomma, e poi sono strade di campagna, per cui sì, insomma, si può fare. Senta, noi siamo abituati ad associare all'asino, al somaro, al ciuccio, tutte cose negative, insomma, come proprio sinonimi di cose negative. Invece voi con questa fiera, tra l'altro, e con questo avvicinamento all'asino, volete dimostrarci il contrario. Cioè, l'asino serve a un sacco di cose. Mi diceva lei che si fa il trekking sull'Appennino con l'asino. Poi un animale, per esempio, che serve per avvicinare i bambini agli animali, perché è molto mansueto. Certo, sono tutte cose vere, e soprattutto è una nicchia di mercato che è in continua evoluzione, in continua espansione. È un punto di riferimento questa nostra mostra internazionale dell'asino per tanti allevatori che pian piano iniziano a riconvertire parti di territorio, soprattutto pedemontano, all'allevamento dell'asino, che serve, come ha detto lei, per scopi turistici, trekking con l'asino, per scopi terapeutici, la pet therapy, c'è un convegno proprio in questi giorni nei padiglioni delle nostre fiere, e anche per fare attività proprio ludiche con i bambini. Mi riferisco all'asino bus. Insomma, quindi ecco, all'asino bus, ma quindi se mi danno dell'asino non mi devo più arrabbiare. Senta, però, adesso la fiera finisce domani, credo, no? Sì, dura fino a domani e poi finisce la fiera. Però questo esperimento dell'asino taxi che voi avete fatto per il secondo anno consecutivo, adesso anche con gli anziani oltre che con i bambini, perché non lo portate avanti al di là della fiera? Insomma, chi se non voi potrebbe fare questo? Guardi, le confido una cosa, che la mia casella di posta elettronica è piena di email che ci inducono proprio a fare questo. Adesso dovremmo fare un po' un bilancio di un'attività sperimentale, perché l'asino taxi è il primo anno che l'abbiamo fatto, quindi dovremmo fare un po' un bilancio delle attività e poi insomma decideremo. L'attività era sperimentale, però il grosso successo che è stato riscosso, insomma, ci provate a impegnarvi, le tante email ci inducono a portarlo avanti. Va bene, grazie. Allora, buona fine di fiera a Codega Sant'Urbano, questo era il sindaco, e allora vedremo se l'asino taxi diventerà una realtà da quelle parti, almeno e altrove in campagna. Si può fare cronache da un paese migliore. Cari ascoltatori, oggi abbiamo sentito dal rettore dell'Università di Genova che si può fare la lotta all'assenteismo. Lui ha avviato un censimento sugli carichi di lavoro e le assenze, soprattutto dei professori nell'Ateneo genovese. Oggi vi chiediamo all'800 24 00 24 di sfogarvi di fronte a un caso che vi è capitato di assenteismo insopportabile. E tra l'altro le notizie non mancano. Solo questa settimana, sentite qua, ne abbiamo scelte due: a Modica, all'ospedale, al poliambulatorio di via Aldo Moro, la Procura della Repubblica ha avviato un inchiesta e ci sono ben 42 persone indagate tra medici, infermieri e dipendenti, perché insomma in varia maniera non andavano a lavorare. E qua è un caso incredibile, addirittura al cimitero di Caltanissetta, insomma la gente andava a trovare il caro estinto e era tutto in disordine, non c'era alcuna cura, eppure ci sono tre custodi che però erano sempre assenti, ci sono tre denunce. Questo avviene al cimitero di Caltanissetta. 800 24 00 24, ci ha chiamato Rosario, che tra l'altro chiama proprio da Caltanissetta. Buongiorno, sembra fatto apposta ma è un caso. Lei di che cosa ci voleva parlare invece? Di una mia esperienza universitaria, sì, fatta qualche anno fa, dove su un corso, parliamo dell'Università di Messina in questo caso, su un corso semestrale, quindi 6 mesi di corso da settembre a gennaio passato, il professore non ha fatto nessuna lezione tranne una, e quando gli abbiamo chiesto delle ragioni del perché, lui ci diceva che lui non poteva, che non potevi di più. 6 mesi di corso lui ha fatto soltanto una. La sentiamo malissimo, Rosario, peccato. Insomma, un caso all'Università di Messina. Ripeto, l'università è una dei tanti possibili, però in effetti chi ha frequentato l'università, chi non ha avuto almeno una volta il caso di un professore che non c'era perché aveva altri incarichi, tutti motivi magari anche comprensibili e condivisibili, però poi di fatto c'erano gli assistenti a volte a tenere il corso e non sempre preparatissimi. 800 24 00 24, ci ha chiamato anche Francesco da Milano. Buongiorno, lei di che cosa si vuole sfogare? Buongiorno, io volevo dirvi di un'idea che mi è venuta. Allora, visto che c'è tanta gente che per motivi vari non è molto presente al lavoro, per permessi studio, permessi sindacali, permessi per la legge 104 perché hanno dei parenti invalidi. Niente, siccome si parlava di professori mi è venuta un'idea. Allora, visto che hanno introdotto una norma che per 50 giorni di assenza un alunno deve ripetere l'anno, si potrebbe fare anche per i lavoratori e per i nostri parlamentari. Oltre i 50 giorni di assenza per qualunque titolo, salvo comprovate malattie gravi, potrebbe essere una causa di licenziamento per giusta causa. Va bene, grazie Francesco. È una proposta, anche questa è una possibile soluzione, anche se poi sappiamo che spesso gli assenteisti risultano presenti perché fanno beggiare qualcun altro, fanno passare il cartellino a qualcun altro e quindi in realtà non sono vere e proprie assenze dimostrabili. Ma insomma, da Milano una proposta. 800 24 00 24, aspettiamo ancora tra pochissimo i vostri sfoghi, le vostre denunce e proposte sui casi di assenteismo. vivere, convivere già difficile tra due persone, come racconta la canzone di Biagio Antonacci, figuriamoci se si è in tanti. Le comuni andavano di moda soprattutto negli anni 70, spinte soprattutto da motivi ideologici. Oggi però qualcuno ci prova ancora a fare una vita comunitaria, e se non si tratta di vera e propria comune o convivenza, almeno si tratta di condivisione, come nel caso del condominio solidale di Bruzzano, tre palazzine comunicanti tra di loro alle porte di Milano, abitate da persone che hanno scelto di condividere alcuni momenti della loro vita, ma non sono hippie fuori stagione o non fanno parte insomma di centri sociali, sono persone che potremmo definire semplicemente persone normali, senza offesa per nessuno, che hanno deciso di fare questo percorso che uno di loro ha definito, secondo me con una sintesi interessantissima e azzeccata, una vita faticosamente felice. Di che si tratta? Ne parliamo con Francesco Croce della comunità proprio di Bruzzano, del condominio solidale, come si dice. Francesco, buongiorno. Ciao, buongiorno Alessio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come vi definite? Condominio solidale. Tra l'altro voi fate parte di un'associazione di case famiglia, ce ne sono molte, sì, in Lombardia. Quante? Sì, siamo una trentina sparse su tutto il nord Italia, la maggior parte concentrate in Lombardia. Ecco, Francesco, tra poco ci racconterai come funziona il condominio solidale, sì, siamo molto curiosi. Prima però vorrei chiedere, è un'esperienza, quando nasce? Perché credo che sia, ad aver capito, che sia un'esperienza piuttosto recente, cioè non è una coda di quelle comuni che dicevo io prima, che venivano dagli anni 70. Voi siete un frutto, un prodotto del terzo millennio, è da poco che sì, ci siete. Sì, guarda, adesso il nostro condominio nasce proprio negli anni 2000, quindi è un'esperienza poco più che decennale, anche se la prima comunità originaria di Villa Pizzone, che è qua sempre di Milano, nasce negli anni 70, molto diversa già dalle comuni degli anni 70, e che ha dentro le caratteristiche che poi sono quelle di tutte le comunità come la nostra. Ecco. Ecco, ma in che cosa consiste questo vostro stile di vita comunitario? Raccontaci un po' qualche particolare. Insomma, io so per esempio che condividete, credo, una parte dei vostri redditi, so che vi occupate in qualche modo, credo, anche di alcuni ex pazienti di ospedale psichiatrico. Sì. Sì. E quindi insomma raccontaci. Guarda, un po' come la giornata come si svolge. Sì, la nostra è una palazzina fatta da ferro di cavallo, ci sono tre palazzine, una di queste è occupata da delle comunità di ex malati del Paolo Pini, quindi di un ospedale psichiatrico, e vivono qua di fianco a noi, sperimentando la possibilità di vivere in un quartiere milanese di fianco a famiglie normali, tra virgolette. E poi noi siamo qua in sette famiglie, io con la mia famiglia siamo qua da sei anni, proveniamo da esperienze diverse, chi dallo scautismo, chi dalle parrocchie, chi dalla cooperazione del terzo mondo, come sottoscritto, io sono medico. Insomma, con la famiglia bisogna essere un po' preparati però per fare una vita, cioè non è che si inizia da zero, bisogna così avere la volontà di condividere con le altre persone, come dire, un vicinato solidale, la voglia di ricreare un po' lo stile che era quello un po' dei nonni, di vivere un po' nell'aia, ecco, no? Della cascina, quindi vicini e aiutandosi gli uni gli altri, e tutto frequentandosi, ecco, sì. Le nostre porte di casa sono aperte in modo che adulti e bambini girino e scorrazzano, anche se ognuno di noi poi ha uno spazio personale di casa, ecco, non è una comune, per capirci. E in questo frequentarsi con uno stile che richiama appunto la semplicità e la sobrietà di vita e la condivisione. Ecco, a me è piaciuta questa sintesi, faticosamente felici. Perché faticosamente e perché felici? Felici perché noi abbiamo ogni famiglia che qua ha scelto di venire qua per essere più felice, non per sacrificarsi a un ideale, a un'ideologia, ma per egoisticamente stare meglio. E noi pensiamo che stando insieme si sta meglio, perché ci si aiuta nei momenti di difficoltà e si condividono anche le gioie insieme, ecco. Io prima di venire qua conoscevo queste persone, ma in realtà non erano miei amici, li ho conosciuti un poco tempo prima di venirci a vivere, ovviamente sono diventate relazioni molto belle e molto profonde. Faticosamente, perché perché lo stare insieme agli altri lo sperimentiamo anche nella società, non è mai semplice. Le idee, anche se condividiamo uno stile di vita, ognuno lo può interpretare a suo modo, quindi trovare il giusto equilibrio non è facile. C'è una, noi usiamo spesso una similitudine, come i porcini che se stanno troppo vicini si pungono, se stanno troppo lontani hanno freddo, per cui bisogna trovare la giusta distanza. Porcospini, bella questa. Ma dall'altro c'è una questione a proposito di ricerca di un equilibrio di cui ci parlavi tu, Francesco, che mi incuriosisce e credo che qualche problema forse ve lo porrà. Voi mettete una parte dei vostri stipendi o tutti addirittura, se non ho capito male, in comune. È difficile raggiungere un equilibrio, cioè non c'è il rischio di pensare io metto molto di più di quegli altri quindi ci rimango fregato, per esempio. Certo, la prima cosa che viene a uno da pensare è questa, che perché questo fa dire anche quant'è l'importanza del denaro nella relazione con le persone. Sì, noi mettiamo insieme i nostri guadagni e all'inizio del mese prendiamo quanto è necessario per la famiglia, secondo un'interpretazione molto personale, e quindi non c'è qualcuno che ti dice che fa il controllore, ecco, è basato su una fiducia. Questa cosa è strana, è la cosa che incuriosisce di più e spaventa di più anche le persone, ma è una cosa che alla fine funziona. Cioè non è tanto una regola ferrea a indurre il comportamento, ma la fiducia e la motivazione. Sì, quindi sì, essendoci quella. Questa, diciamo, la nostra è una realtà di appunto una decina d'anni, però la prima comunità nata è di 35 anni fa, e quindi alla fine è vincente, cioè si è dimostrata un'idea che funziona, ecco. Poi Immagino che adesso la questione degli stipendi, insomma, può indurre qualcuno a titubare, però sicuramente avrete dei risparmi perché mettete in comune anche tante capacità, tante conoscenze, chi aggiusta fa l'idraulico, chi fa il falegname, insomma, magari si inventa. Potrete anche voi essere inseriti un po' in questo filone dei rimedi anticrisi. Noi abbiamo parlato prima, così scherzando, anche del pane che dura 8 giorni o dell'asino taxi. Certo. Insomma. Guarda, penso proprio di sì, anche perché questo diventerà prima o poi quasi una necessità più che una scelta. Per noi è stata una scelta appunto voluta, ma per qualcuno potrebbe essere assolutamente necessario. Come puoi immaginare, per fare i lavori, strutturazione, tante cose vengono comprate una per 7 famiglie, tante cose vengono scambiate, riutilizzate, il riuso, quanto è importante nel non poi cestinare le cose che possono non servire, invece, e questo anche mettendo a disposizione di quello che a noi non piace, è l'idea di essere un'oasi felice. Noi prima di tutti abbiamo degli spazi dove accogliamo anche delle famiglie, delle persone in difficoltà, seguite certo. dai servizi sociali. E poi, insomma, il senso di questa felicità ce lo hai descritto, una felicità che si raggiunge con l'impegno e con la fatica. Grazie Francesco Croce del Condominio Solidale di Bruzzano alle porte di Milano, una bella storia, comunicata anche con l'entusiasmo della voce di Francesco, e magari vi risentiremo più avanti se farete delle iniziative o se vi allargherete. Intanto noi aspettiamo anche le vostre storie, le vostre segnalazioni sul profilo Facebook del programma Si può fare - Radio 24, alla mail Si può fare radio24.it, e in settimana anche sulla nostra segreteria telefonica 800 28 12 12. Si parla molto in queste settimane di riforma del lavoro, spesso in senso tecnico, quanti e quali contratti. Sentite invece questo ascoltatore come vorrebbe che fosse affrontato il mondo del lavoro. La mia ricetta in 30 secondi potrebbe essere la rivalutazione del lavoro, da renderlo non più quella cosa soltanto che ti fa guadagnare il denaro che ti serve, giustamente, ma che ti faccia sentire realizzato come persona, come cittadino, e altrimenti non vedo via d'uscita. Grazie, buongiorno. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, ben ritrovati. Vi abbiamo chiesto oggi, tra l'altro, all'800 24 00 24 di sfogarvi rispetto a casi di assenteismo intollerabili che vi sono capitati. Ci ha chiamato Stefano da Modena. Buongiorno. Cosa ci racconta? Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, a me ha colpito in particolarmente un caso che in realtà, diciamo, è tra virgolette scoppiato 2 anni e mezzo fa, direi, in provincia a Modena, l'ente pubblico, dove c'era una dipendente appunto che è stata scoperta e denunciata perché timbrava il cartellino nell'orario regolare e poi usciva a fare shopping o a fare tutt'altre attività o a volte anche a, diciamo, da quello che ho letto, gestire un'altra attività parallela. E la cosa che, diciamo, mi ha un po' però, diciamo, fatto arrabbiare è che una volta scoperta il fatto, la provincia non l'ha sospesa dal lavoro ma l'ha destinata ad altre mansioni in attesa che la pendenza giudiziaria arrivasse a una conclusione. Va bene, grazie Stefano da Modena. Questo è un destino, capita insomma di fronte anche a casi clamorosi, però poi ci sono degli accertamenti da fare. L'importante sarebbe che gli accertamenti fossero magari rapidi per evitare situazioni come questa. Nome? Carlotta. Andrea. Marco. Età? 22. 23. 20. Luis on the road. Viaggio. Sull'Italia. È in giro per l'Italia. Beh, in pratica è un grande fratello on the road. Assolutamente no. È un web reality universitario. Spiegatemi meglio. Mi porteremo in viaggio. A scoprire le storie. Di gente che rappresenta il nostro paese tutti i giorni. Beh sì, di gente che ce la fa. E di persone che si mettono in gioco. Come vi sposterete? Macchina in treno. A piedi e in aereo. Quando partite? Prima o poi? Più prima che poi. Beh sì, spero presto. Allora ragazzi, buon viaggio. Grazie. Grazie. Grazie. Ciao. E allora li avevamo sentiti all'inizio del loro viaggio la settimana scorsa, li risentiamo oggi a metà di questo viaggio. Marco Pizza, Carlotta Maraschi e Andrea Bramante, 3 studenti della LUIS, un viaggio per l'Italia, la riscoperta dell'Italia migliore, 13 regioni, 35 tappe, 6.000 chilometri, tanti incontri con personaggi, loro dicono ordinari, che però hanno e fanno cose straordinarie. Ben ritrovati ragazzi! Ciao. Ciao, ciao a tutti. Allora io leggo velocemente che cosa avete fatto in questa settimana, cose interessantissime. Avete incontrato una giovanissima e coraggiosa giornalista di Calabria Ora che con delle inchieste ha smosso diverse cose, adesso vive sotto scorta. Avete dormito nella casa di Montalbano. In Sicilia avete incontrato un gelataio che ha fatto 500.000, se ho capito bene, chilometri a piedi col suo chiosco. E poi all'Aquila avete incontrato quel professore che abbiamo conosciuto tutti perché era rimasto nella sua casa dopo il terremoto e non voleva lasciarla alla protezione civile. Carlotta, ti ho già sentito, cosa ti ha impressionato di più questa settimana? Allora, in questa settimana volevo appunto parlarvi del professor Colapietra, che è questo signore ottantenne, ex docente di storia moderna dell'Università di Salerno e affabulatore della storia dell'Aquila. Si è guadagnato appunto l'effetto e la stima degli aquilani la mattina della scossa delle 3.32 con il cosiddetto gran rifiuto, è stato soprannominato in questo modo, di abbandonare la sua casa e vive tuttora nella zona rossa. Quindi diciamo che ieri lo abbiamo incontrato perché ieri eravamo all'Aquila e ci ha un po' raccontato la situazione dell'Aquila attuale. Non ho voluto entrare in merito relativamente a quanto è accaduto la sera, per quanto riguarda il terremoto, perché ha detto che comunque sono storie che ha già raccontato molte volte e quindi anche ritornare indietro e continuare a raccontare di questa storia, lui in realtà vorrebbe andare avanti. Beh, certo. Andare avanti augurandosi in particolar modo che l'Aquila possa essere rivalutata, addirittura lui ci ha spiegato che vorrebbe che l'Aquila diventasse parte del Lazio e diventasse provincia di Roma. Questo è il suo sogno, sarebbe questo. Non lo so se c'entra qualcosa anche l'età. No, sto scherzando. Carlotta, Marco e Andrea, purtroppo il tempo è tiranno, io devo chiudere, però la settimana prossima, alla fine del vostro viaggio, vi aspetto perché vi voglio chiedere se c'è un'Italia migliore, qual è invece secondo voi il confine dell'Italia peggiore, perché anche questo è importante per cacciarla via e lasciarla alle nostre spalle. Salutiamo tutti, Stefania Tadaferri e Valeria Bernardi in regia. Grazie, buona settimana e buona domenica a tutti.